Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. E molti di questi farmaci erano proprio rubati su commissione, quindi venivano contattati i dipendenti e quindi prendevano quei farmaci specifici. Abbiamo chiuso l'attività soprattutto per impedire che questi farmaci fossero immessi nei mercati senza sapere come erano stati conservati. E questo può determinare se quel farmaco guarisca o al contrario rischi di avvelenare. Di questo in fondo si tratta quando parliamo di furti di medicinali. Sulla mia scrivania leggo cronache e comunicati stampa di forze dell'ordine su sequestri, perquisizioni e arresti da una parte all'altra del paese e ripenso alla natura doppia di quelle sostanze insita in realtà fin dalla parola stessa. Per i greci antichi, infatti, che inventarono la medicina scientifica, la parola farmaco significa allo stesso tempo sia ciò che guarisce ma anche ciò che avvelena. Farmaci erano le pozioni di Elena e della maga Circe, ma farmaci erano anche quegli intrugli che riuscivano a rendere felici tutti, scriveva Omero, e far dimenticare i dolori. Mi ritornano alla mente lontane reminiscenze del mito, mentre analizzo storie e dati di un traffico illecito di nuovo in crescita e sempre più insidioso, oltre che odioso, perché nelle mani sbagliate quei farmaci possono appunto diventare veleni. Un grosso deposito farmaceutico della provincia di Milano era venuto a segnalarci una serie di furti subiti ad opere di dipendenti che non avevano identificato. Quindi dei furti tutti in una volta, progressivi nel tempo? Quotidianamente subivano tutta una serie di furti e capivano che, non essendo un'azienda chiusa, gli unici responsabili potevano essere dipendenti. Quotidianamente si appropriavano di tutta una serie di farmaci che andavano dagli anabolizzanti, ma anche farmaci antinfiammatori. I furti singoli erano poche confezioni ogni volta o anche di grandi quantità? Noi siamo stati interessati dalla denuncia a novembre dell'anno scorso e abbiamo chiuso l'attività con un intervento in flagranza qualche giorno fa, proprio per evitare che la ditta subisse ulteriori furti, ma soprattutto per impedire che questi farmaci fossero immessi nei mercati senza sapere che tipo di come erano stati conservati, come erano stati appunto gestiti. Ogni giorno spariva qualcosa, ora una confezione di tachipirina, ora una di Aulin. Chi di noi non ne ha mai fatto uso? Avranno pensato che tra così tante confezioni nessuno mai se ne sarebbe accorto, in fondo a casa c'era sempre qualcuno che ne aveva bisogno. Ma poi cominciarono a sparire anche gli anabolizzanti, quelli così richiesti nel mondo del doping, e allora ecco che qualcosa di più grosso doveva esserci dietro tutto ciò che avveniva in questo deposito di Novate Milanese, quello che poi hanno ricostruito i carabinieri dei NAS di Milano, guidati da Salvatore Pignatelli. È un deposito, è un distributore all'ingrosso, preparava spedizioni sia per strutture ospedaliere che per le farmacie territoriali della Lombardia, di tutta la Lombardia. E molti di questi farmaci erano proprio rubati su commissione, quindi venivano contattati i dipendenti e quindi prendevano quei farmaci specifici. Ci faccio un po' il profilo delle persone che commissionavano questi furti. Facevano dei personal trainer in un certo ruolo in alcuni palestre dell'Interland, ma c'erano anche persone che in realtà non facevano parte della filiera ufficiale del farmaco, ma che comunque da tempo erano ormai avvezzi a questo tipo di commercio perché particolarmente redditizio. Creavano un proprio mercato sottobanco di farmaci, immagino per quelli di largo consumo. Assolutamente sì, ma anche per quanto riguarda i farmaci dopanti, che sono quelli più costosi, sui quali c'è il maggior margine. Che cosa invece è stato possibile da parte vostra ricostruire rispetto alla conservazione di questi farmaci? E poi, i farmaci da banco che erano stati rubati venivano poi rivenduti in un circuito, di relazioni personali oppure sotto banco anche a delle farmacie, come a volte altre inchieste hanno ricostruito anche in altre parti d'Italia? Farmacie non sono emerse, però quello che già è emerso è che loro avevano parenti, amici ai quali consegnavano questi farmaci, in più c'erano delle figure legate appunto al mondo delle palestre palestre, quindi personal trainer, e figure invece che facevano degli ordini per i farmaci da destinare al mercato illecito, e stiamo approfondendo se solo in Lombardia o anche in altri territori. Tra gli ultimi casi, il furto da un grande deposito di Novate Milanese. 3.000 confezioni di farmaci sottratte solo in un paio di mesi, per un danno di 500.000 euro. Ma negli ultimi anni sono state decine i furti di medicinali, da farmacie ospedaliere o grandi depositi. Furti sia di farmaci antitumorali molto costosi che di farmaci da banco. Il picco si registrò nel 2013, quando furono 800.000, secondo calcoli dell'AIFA, l'agenzia del farmaco, le confezioni sparite. Un record toccato anche per il grosso furto in una sola volta di 200.000 pezzi. Nella seconda metà del 2016 i furti si sono fermati a meno di 100.000. Lo schema, il più delle volte, è lo stesso. I farmaci rubati su commissione venivano reintrodotti nel mercato legale con false fatture, emesse da operatori privi di autorizzazione e con sedi fittizie in altri stati europei, per poi essere rivenduti a grossisti italiani. Il più delle volte questi farmaci prendevano la strada della Germania. Lì, ad esempio, nel 2014 furono trovati farmaci antitumorali confezionati in Italia. Erano però stati conservati in un garage e quindi risultarono deteriorati. Ma a volte i medicinali rubati sono stati anche diluiti o manomessi, con gravi rischi per la salute di chi li assume. Ma perché soprattutto la Germania stupisce all'apparenza ritrovare questo paese come destinazione finale di flussi illeciti di farmaci, come accertato in diverse inchieste? Ebbene, la spiegazione è soprattutto nella differenza di prezzo di alcuni medicinali, dovuta a precise normative tese a Berlino al risparmio della spesa. Così la Germania e non solo si sono ritrovati più volte a fare i conti col difficile accesso a farmaci innovativi come quelli contro l'epatite C per l'alto costo e la scarsa accessibilità. Ammette la stessa agenzia del farmaco, genera una crescente domanda soddisfatta anche dal mercato nero. Le rotte di 3 significativi furti commessi in Italia nel 2016 portarono infatti fin qua, conferma il direttore dell'area ispezioni e certificazioni dell'AIFA, Domenico Di Giorgio. Dopo una crisi nel 2013-2014 eravamo riusciti a fermare sostanzialmente il fenomeno, che si era spostato su altri paesi meno attrezzati. Nell'ultimo paio d'anni il fenomeno è tornato, abbiamo di nuovo attacchi agli ospedali soprattutto e rapine anche sul territorio. Oggi sappiamo che ci sono canali extraway che non riusciamo a controllare, dove possono finire certi tipi di farmaci, e insieme all'industria e alle forze di polizia lavoriamo per cercare di prevedere i prodotti più a rischio e metterli sotto un controllo maggiore. Ma voi vi siete fatti un'idea, anche sulla base della comparazione di quanto succede anche negli altri paesi, delle ragioni per cui c'è stata questa intensificazione di furti di farmaci? Sicuramente il grosso valore commerciale di questi prodotti è un driver importante, però consideri che nelle indagini che abbiamo fatto negli ultimi anni sono emersi anche dei canali di riciclaggio per farmaci da banco. Cioè, quello che abbiamo dall'altra parte è una rete di distribuzione fantasma. Nell'assalto a un tir in autostrada io trovo sia il farmaco ospedaliero che il farmaco da banco, e ha poi canali specialistici che possono riciclare i vari tipi di farmaci. Per esempio, se io riesco a rubare nel mazzo dei prodotti dopanti o del botulino, quindi li faccio finire sul mercato nero, non c'è bisogno di andare a cercare un canale specialistico all'estero. Lo sentiremo più avanti quali rischi tutto questo potrebbe aprire, ed entreremo in certi pseudo-ambulatori low cost di interventi estetici, perché poi certi farmaci bisogna essere anche preparati a somministrarli. Ma nel mondo dei traffici di medicinali rubati si allungano anche le ombre della malavita organizzata, richiamata ovviamente dalla prospettiva di guadagni, ed anche questo è emerso in una costola di un'inchiesta tra le principali e più studiate sul settore, portate avanti da Diana Russo, all'epoca PM alla Procura di Napoli Nord, ora a Belletri. Nel giugno 2014 la Guardia di Finanza di Fiumicino si è imbattuta casualmente in un deposito contenente un elevatissimo numero di confezioni di farmaci, 58.200 confezioni per un valore circa 900.000 euro. Erano antitumorali, una parte erano farmaci ospedalieri. Fu individuato un soggetto che, come le dicevo, era farmacista e quindi aveva anche la disponibilità del sistema, diciamo, che viene utilizzato normalmente dalle farmacie proprio per la catalogazione dei farmaci. però le indagini successive hanno consentito di individuare altri soggetti. Dove erano destinati questi farmaci? In parte rubati presso farmacie ospedaliere, in parte provento di rapine ai trasportatori. Poi questi farmaci venivano, diciamo, fatti convergere all'interno dei depositi. Il passaggio successivo sarebbe stata la predisposizione di false fatture, che quindi sarebbero stati poi rivenduti a grossisti che apparentemente li avrebbero acquistati da società straniere che in realtà sono cartiere, e li avrebbero quindi reimmesso sul mercato, con un impatto di potenziale rischio sulla salute pubblica non commensurabile. Quindi l'utente finale acquista poi in farmacia, è la catena intermedia che è quella interessata dal crimine. Ora mi capita di pensarci, ve lo confesso. Entro in una qualsiasi farmacia e mi chiedo: e se questa confezione che ho in mano è arrivata su questo bancone dopo chissà quali giri non ancora scoperti? Sarà deformazione del cronista ed effetti collaterali, diciamo così, di troppi illeciti raccontati anche qui a Storiacce. Però, anche se non troppe volte, anche questo è successo in Italia. È successo e continua a succedere, anzi con un'intensificazione rispetto al passato, anche per via di falle nella tracciabilità delle confezioni, ma ancor di più nel sistema sanzionatorio. A rubare farmaci si rischia poco o niente in Italia, per non parlare di quanto facile sia poi farli girare da un paese all'altro di Europa questi farmaci, che poi finiscono talvolta anche in strutture non adeguate. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce. I racconti di Storiacce. L'Agenzia del Farmaco lo dice con chiarezza: farmaci ad esclusivo uso ospedaliero. Eppure talvolta sono usati anche dai dentisti e si trovano ancor di più in qualche centro di chirurgia estetica. Sono alcuni tipi precisi di farmaco, usati per far addormentare i pazienti in modo locale o totale, farmaci del sonno che in teoria però andrebbero somministrati esclusivamente in strutture capaci di far fronte a qualsiasi evenienza, non in ambulatori cioè. Eppure, stando ad alcune denunce che abbiamo raccolto, vengono ugualmente utilizzati e senza informare il paziente. Capita così che nel mercato low cost, soprattutto negli interventi estetici, finiscano anche degli anestesisti a cui, insieme all'offerta di lavoro, gli viene fatta anche una domanda: i medicinali, se li procura lei? E questo ancora un altro filone del traffico dei farmaci rubati, sostanze anestetizzanti sottratte agli ospedali e usate in strutture che non sarebbero abilitate a farlo. La denuncia ci arriva dall'interno, direttamente dall'ambiente medico, ma non sentirete la voce di questa persona che ci ha fatto un racconto dettagliato della situazione, perché teme per sé, teme per ripercussioni. Il problema si pone per alcune sostanze, molte usate dai dentisti, ma ancor di più ci scrivono per prestazioni di chirurgia estetica, che negli ultimi tempi hanno avuto un autentico boom. Aumenta la domanda e si moltiplica pure l'offerta, con la conseguenza di una concorrenza spietata. L'abbassamento dei costi è in parte attuato facendo ricorso a strutture ambulatoriali, che spesso si spacciano per sale operatorie più economiche delle classiche cliniche private. Parliamo di interventi che vanno da blefaroplastiche, otoplastiche, fino a liposuzioni, mastoplastiche, lifting, eccetera. In questi casi il midazolam normalmente non è sufficiente e occorre far ricorso ad altri farmaci, in particolare uno stupefacente molto potente, il remifentanil, o a un ipnotico, il propofol. L'uso di questi farmaci è strettamente ospedaliero, pertanto devono essere sottratti a strutture autorizzate dai soggetti che vi lavorano. Ovviamente in queste situazioni, non essendo previste le obbligatorie disposizioni specifiche in caso di emergenze, vi sono sempre aumentati rischi per i pazienti. Aumentati rischi per il paziente, il punto è proprio questo. L'altra faccia del furto dei farmaci sono i pericoli per la salute. Lo scandalo scoppierà con la prima vittima? Perché ci sarà una precisa ragione, no? Se certe sostanze andrebbero usate, secondo l'Agenzia del Farmaco, solo in sala operatoria. Invece si chiede a degli anestesisti di portare fuori dagli ospedali farmaci che questi ambulatori, soprattutto di chirurgia estetica, non potrebbero procurarsi in altro modo. All'estero, va detto, le norme sono più permissive, ma noi siamo qui in Italia, dove forse ci sono più rigidità anche a difesa della salute, o forse ci sono anche vuoti normativi, ammettono dall'Associazione degli Anestesisti, vuoti che possono favorire consuetudini diverse da quelle stabilite dai confini normativi. I rischi sono nel giro del low cost, riconosce il presidente degli anestesisti Alessandro Vergallo. Ora si tratta di capire se questi studi intanto hanno l'autorizzazione affinché al loro interno possa essere svolta un'attività anestesiologica. Entro certi limiti l'utilizzo di farmaci selvati anestesista al medico specialista in anestesia e rianimazione può essere anche svolto al di fuori della sala operatoria. Se questi farmaci hanno una loro limitazione, esistono dei rischi per il paziente se questi vengono utilizzati anche se da mani esperte al di fuori delle strutture ospedaliere? Loro utilizzo comporta sempre dei rischi, tanto è vero che si parla di loro utilizzo in ambiente protetto. L'utilizzo in ambiente al di fuori della sala operatoria deve tenere conto di situazioni predittive di rischio. Il traffico dei farmaci rubati ha dunque molte facce e ancora più interessi, anche se quelli principali, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, ruotano intorno ai farmaci antitumorali che stanno alimentando un giro capace di diventare il nuovo grande business delle organizzazioni criminali, quasi come le droghe, conferma pure lo studio di Transcrime dell'Università Cattolica di Milano e quella di Trento. Vi ha lavorato anche Michele Riccardi. Abbiamo fatto luce su una serie di casi molto numerosi. Ne abbiamo contati 110 negli ultimi 8 anni, vuol dire che un ospedale ogni 10 è stato vittima in media di un furto di farmaci. Ecco, che tipo di farmaci si rubano in prevalenza? Farmaci antitumorali, immunosoppressori, comunque farmaci ad alto costo, in genere coperti dal sistema sanitario nazionale. Questo ci ha fatto pensare che in termini di domanda non sia quella del mercato nero, ma questi farmaci potessero essere poi rimessi nel mercato legale, di nuovo venduti a farmacie, ospedali e a grossisti. Un altro fronte, diverso ma non meno denso di pericoli, è quello dell'acquisto di farmaci online, spesso contraffatti, come hanno scoperto soprattutto a Malpensa i carabinieri del NAS. Soprattutto sono sostanze per problemi sessuali maschili o sostanze dimagranti. Ci accorgiamo che all'interno dei pacchi, che molte volte dichiarano contenere oggetti vari, da giocattoli ad alimenti, in realtà contengono o farmaci o integratori alimentari. Il 70% sono farmaci contro le disfunzioni erettili maschili, il 20% sono dopanti, ad effetto quindi presente per gli sportivi, e il 10% sono farmaci anoressizzanti. Tutto questo che denunciavamo già 4 anni fa su segnalazione di una fonte interna, un ascoltatore di Storiacce, nel tempo si è modificato, inizialmente diminuito, poi risalito, di sicuro non sparito, ed è per questo che ve l'abbiamo riproposto. E questo anche perché dietro questi furti ci sono buchi neri che il magistrato Diana Russo e Domenico Di Giorgi dell'AIFA hanno elencato in uno studio appena pubblicato dal Consiglio d'Europa. I farmaci hanno un sistema di tracciabilità che si basa intanto sul codice AIC, che è l'autorizzazione all'immissione in commercio. Poi ogni scatola ha un lotto di produzione e dovrebbe avere anche un numero di targatura individuale, che però non è obbligatorio, quindi non è sempre presente. Già andare a individuare il venditore diventa difficile. La prima considerazione che viene da fare è che chi mette in atto traffici di questo genere conosce molto bene le falle di questo sistema. E le falle sono nella ricostruzione della filiera distributiva del farmaco. Cioè in qualche modo sa che può rischiare di rubarli, rimetterli in mercato e anche di farla franca. Soltanto alcune case farmaceutiche procedono all'indicazione del singolo numero di targatura di confezione. Le falle che spalancano le porte a questi furti di farmaci, quali sono? Delle norme che si possono contestare. Come le dicevo, io nel nostro caso la prima fattispecie che abbiamo contestato è la ricettazione, perché noi abbiamo rinvenuto una certa quantità di farmaci in un deposito, così è iniziata l'indagine. E la ricettazione, diciamo, è una fattispecie comune, non dà la misura della pericolosità di questo comportamento, che è un comportamento che invece riguarda farmaci sottratti al sistema sanitario nazionale, detenuti in condizioni non note e poi reimmessi però sul mercato. Non esistono norme specifiche in questo caso riferite proprio ai farmaci o magari circostanze aggravanti. Questa è una delle prime indicazioni che abbiamo suggerito e che tra l'altro sarebbe già prevista dalla convenzione Medicrime, che è appunto una convenzione che è già stata sottoscritta da numerosi paesi europei ma non è stata ancora ratificata dall'Italia. L'Italia è indietro rispetto alla ratifica di questa convenzione e questo potrebbe essere una delle ragioni per cui è più difficile, diciamo, perseguire questi tipi di traffici, giusto? Sì, diciamo, una prima indicazione potrebbe appunto essere quella di armonizzare la leggi dei vari paesi europei anche sul piano delle autorizzazioni. Per sintetizzare, possiamo dire che le norme attualmente esistenti sono insufficienti, diciamo, per contrastare questa criminalità farmaceutica? Sicuramente, sul piano sostanziale, quindi una valorizzazione, diciamo, del fenomeno attraverso introduzione o, se non di fattispecie, almeno di circostanze aggravanti ad hoc riferire ai farmaci, e sul piano procedurale attraverso appunto un maggiore coordinamento tra gli uffici, una maggiore incisività del sistema tracciabilità dei farmaci. E un altro aspetto è anche quello delle sanzioni accessorie, soprattutto quando implicati in queste vicende sono professionisti, come nel mio caso il farmacista. Racconti di storiacce di Raffaella Calandra. In regia Paolo Corleoni. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Seguiteci e scriveteci anche con vostre segnalazioni e commenti sulla pagina Facebook di Storiacce o via mail. Ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account Raff Calandra. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.